unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili ewe, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili, nani kama wewe, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili ewe, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili, nani kama wewe, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili we, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili, hakuna kama wewe, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili we, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili, nani kama wewe, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili we, unastahili we, unastahili kuwa, unastahili we, unastahili we. Hallelujah. Unastahili Bwana.